Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. Venne agosto, il mese del suo secondo esame. Era opinione corrente che bastassero 15 giorni per prepararlo. Federico, sicuro del fatto suo, si sorbì in un colpo solo i primi 4 libri del codice di procedura, i primi 3 del codice penale, parecchie parti di istruzione criminale e un pezzo di codice civile. Il giorno prima dell'esame, Delorier gli fece fare un ripasso che si protrasse sino al mattino e per mettere a profitto anche l'ultimo quarto d'ora continuò a interrogarlo sul marciapiede mentre camminavano. Dato che si svolgevano simultaneamente diversi esami, c'era parecchia gente nel cortile, fra gli altri Hussonnet e Sisi. Non si tralasciava mai di assistere a quelle prove quando si trattava dei compagni. Federico si infilò la tradizionale toga nera e insieme ad altri 3 studenti entrò, seguito dalla folla, in una grande stanza, rischiarata da finestre senza tende e arredata con delle panche tutto intorno lungo le pareti. Federico era il penultimo della serie, brutta posizione. Alla prima domanda, differenza tra una convenzione e contratto, diede dell'una la definizione dell'altro. Il professore, un bravo uomo, gli disse: «Non si agiti, signore, cerchi di riprendersi». Poi, dopo 2 domande facili, seguite da risposte senza rilievo, passò a una quarta. Federico era demoralizzato per l'inizio pietoso. Di fronte a lui, fra il pubblico, Delorier gli indicava accenni che tutto non era ancora perduto. Alla seconda interrogazione, sul diritto criminale, aveva fatto una figura discreta. Ma dopo la terza, che riguardava il testamento mistico, la sua angoscia era raddoppiata. L'esaminatore era rimasto impassibile, mentre Hussonnet giungeva le mani come per applaudirlo e Delorier, al contrario, si prodigava in alzate di spalle. Alla fine fu proclamato che avrebbe dovuto ripresentarsi. «Stangato!» disse Hussonnet. «Andiamo via!» Davanti alla guardiola del custode si imbatterono in Martinon, rosso ed emozionato, con un sorriso negli occhi e l'aureola del trionfo sulla fronte. Aveva appena sostenuto, senza incidenti, il suo ultimo esame. Non gli restava che la tesi. Fra 15 giorni si sarebbe laureato. La sua famiglia conosceva un ministro, una bella carriera gli si schiudeva davanti. «Intanto ti dà dei punti quello là», disse Delorier. «Niente più umiliante che vedere degli sciocchi riuscire dove abbiamo fallito». Federico, rabbioso, replicò che se ne infischiava. Le sue mire erano più in alto. Vedendo che Hussonnet stava per andarsene, lo prese da parte per dirgli: «Di questo non una parola con loro, si capisce». Non era difficile mantenere il segreto, dato che Arnoux, il giorno dopo, partiva per la Germania. La sera, tornando a casa, lo scrivano trovò l'amico singolarmente mutato d'umore. Piroettava, fischiettava. Di fronte allo stupore dell'altro, Federico dichiarò che non sarebbe andato a casa da sua madre e avrebbe passato le vacanze lavorando. Alla notizia della partenza di Arnoux, la gioia si era impadronita di lui. Avrebbe potuto presentarsi in casa loro con tutta tranquillità, senza timore che le sue visite venissero interrotte. La convinzione di essere assolutamente sicuro gli avrebbe dato coraggio. Finalmente niente l'avrebbe tenuto lontano, niente l'avrebbe separato da lei. Qualcosa di più forte di una catena di ferro lo tratteneva a Parigi. Una voce interiore gli gridava di restare. C'erano alcune difficoltà. Le superò scrivendo a sua madre. Le confessava senza perifrasi il suo insuccesso, provocato da certi cambiamenti nel programma, dal caso, da un'ingiustizia. E poi tutti i grandi avvocati erano stati respinti a qualche esame, ma contava di ripresentarsi a novembre. Non avendo tempo da perdere, per quell'anno non sarebbe andato a casa. E chiedeva, in aggiunta al denaro del trimestre, 250 franchi per le ripetizioni di diritto, utilissime. Il tutto infiorato da sfoghi di rimorso, rammarichi, moine e proteste di amor filiale. La signora Moreau, che l'aspettava per il giorno dopo, fu doppiamente rattristata. Tenne nascosta la disavventura del figlio e gli rispose d'andare a casa comunque. Federico tenne duro, ne nacque un dissidio. Ciò nonostante, alla fine della settimana ricevette il denaro del trimestre e la somma destinata alle ripetizioni, che gli servì per l'acquisto di un paio di pantaloni grigio perla, di un cappello di feltro bianco e di un bastone con l'impugnatura d'oro. Per sapere se dovesse andare o no da Madame Marnoux, gettò in aria per 3 volte una moneta. Ogni volta il presagio fu favorevole. Dunque era il destino a decidere. Montò in carrozza e si fece portare in Rue de Choiseul. Salì con impeto la scala, si attaccò al campanello. Nessun suono. Era sul punto di svenire. Tirò da capo con furia il pesante cordone di seta. Un carillon risuonò, si spense a poco e poi silenzio di nuovo. Federico ebbe paura. Stava già per andarsene, poi si ricredette. Diede questa volta uno strappo discreto, leggero. La porta s'aprì e sulla soglia, tutto spettinato, col viso paonazzo e l'aria scocciata, comparve Arnoux in persona. «Tò, cosa diavolo? Avanti, avanti!» Intanto lo spingeva, non verso il boudoir o la sua stanza, ma nella sala da pranzo, sul cui tavolo stavano una bottiglia di champagne e 2 bicchieri. E con tono brusco, «Ha bisogno di qualcosa, amico mio?» «Non ho, di niente», balbettò il giovane, che stava cercando un pretesto alla sua visita. Gli disse alla fine che era venuto a chiedere sue notizie, dato che lo credeva, stando alle informazioni di Hussonet, partito per la Germania. «Ma nemmeno per sogno!» ribatté Arnoux. «Che testa quel ragazzo! Sembra fatto apposta per capire le cose a rovescio!» Per nascondere il suo turbamento, Federico andava avanti e indietro per la sala. Urtando il piede d'una sedia, fece cadere un ombrellino che era posato sopra. Il manico d'avorio andò in 1000 pezzi. «Oh mio Dio!» esclamò Federico. «Sono proprio desolato d'aver rotto l'ombrellino della signora Arnoux!» A queste parole, il mercante alzò la testa e fece uno strano sorriso. Federico, afferrando quell'occasione di parlare di lei, aggiunse timidamente: «Non potrei salutarla. Era al suo paese, dalla madre ammalata.» Federico non osò far domande sulla durata della sua assenza e si limitò a chiedere quale fosse il paese della signora. «Chartres. Le sembra strano?» «A me? Ma niente affatto, perché... niente, del tutto.» Non trovarono più, in seguito, la minima cosa da dirsi. Federico scese le scale un gradino dopo l'altro. L'insuccesso di quel primo tentativo gli toglieva coraggio per i successivi. Cominciarono così 3 mesi di noia. Non aveva niente a cui lavorare e il far niente aumentava la tristezza. Ricominciarono i pranzi e più Federico frequentava Madame Marnoux, più si sentiva languire. La contemplazione di quella donna lo snervava, come annusare un profumo troppo forte. E una condizione siffatta era calata sì nel profondo della sua natura. Diventava quasi una sensibilità nuova e diversa, un nuovo modo di esistere. Pensava, tuttavia, alla felicità di vivere insieme a lei, di darle del tu, di passarle una mano a lungo fra i capelli o di starsene a terra, inginocchiato, cingendole la vita con le braccia, bevendone l'anima dagli occhi. Sarebbe stato necessario per questo sovvertire il destino. E Federico, incapace d'agire, maledicendo Dio e accusando se stesso d'essere vile, s'aggirava dentro il suo desiderio come un prigioniero nella cella. Un'angoscia incessante lo soffocava. Restava immobile per ore, oppure a un tratto scoppiava a piangere. Un giorno, che non aveva avuto la forza di controllarsi, Delorier gli disse: «Ah, oh, mio vecchio menestrello, so ben io quel che t'affligge. È il cuoricino, no? Confessalo. Ah, per una che ne perdi, quattro ne trovi. Delle donne per bene ci si consola con le altre. Eh? Ne vuoi conoscere di donne? Non hai che da venire all'Alhambra». Era una sala da ballo, di uno sfarzo mai visto, appena aperta allora, in fondo ai Champs-Élysées. «Ci si diverte, a quanto pare. Su, andiamoci. Potrei portarti dietro i tuoi amici, se vuoi. Ti permetto persino Reginbar». Federico non condusse il cittadino. Delorier rinunciò a Senecal. Portarono soltanto Ussonnet e Sisi insieme a Dussardier. E fu da un'unica carrozza che scesero tutti e cinque insieme davanti all'ingresso dell'Alhambra. C'erano parecchi studenti con le loro amiche. Commessi di negozio si pavoneggiavano reggendo un bastoncino di bambù fra le dita. Collegiali fumavano grossi sigari costosi. Anziani scapoloni si accarezzavano col pettine la barba tinta. Sartine, fanciulline allegre e prostitute erano lì nella speranza di trovare un innamorato, un protettore, un po' di soldi o anche semplicemente per il gusto del ballo. E le si vedeva passare e agitarsi con le loro tuniche verde acqua o rosso ciliegia, turchine o violette, tra le piante d'ebano e i rami di lillà. Gli uomini portavano quasi tutti dei vestiti a quadretti. Qualcuno, a dispetto della frescura serale, aveva i pantaloni bianchi. Proprio allora stavano accendendo le fiammelle delle luci a gas. Ussonnet, grazie alle sue relazioni coi giornali di moda e i teatri d'operetta, aveva un gran numero di conoscenze femminili. Mandava baci sulla punta delle dita e ogni tanto, abbandonando gli amici, andava a conversare con qualcuna. «Chi si vede? La marchesa d'Amégy!» Era una donna pallida, col naso all'insù, i mezzi guanti lunghi fino al gomito e dei riccioloni neri che le pendevano lungo le guance come orecchie di cane. Ussonnet le disse: «Perché non organizziamo una festicciola a casa tua? Un'orgia all'orientale. Cerca di raccogliere qualche amica per questi cavalieri francesi, eh? Allora, c'è qualcosa che non va? O stai per caso aspettando il tuo hidalgo?» L'andalusa era lì a testa bassa e, conoscendo le abitudini poco dispendiose dell'amico, temeva di restar fuori coi soldi dei rinfreschi. Alla fine, quando ella si fu lasciata sfuggire la parola denaro, Sisi offerse 5 napoleoni, quanto aveva con sé. La cosa fu combinata. Ma Federico era scomparso. Gli era parso di riconoscere la voce di Arnoux. Aveva intravisto un cappellino e si era affrettato a inoltrarsi nel boschetto vicino. La signorina Vatnaz era lì sola con Arnoux. Una sera, dal suo balcone, Federico scorse da lontano Issonnet che stava sul ponte di Arcole. L'artista si mise a fargli dei segni e dopo che Federico ebbe disceso i suoi 5 piani, si tratta di questo, sabato prossimo, il 24, è la festa della signora Arnoux. Ma come, non si chiama Maria? Ma anche Angela, non ci pensare. La festa è nella loro casa di campagna, a Saint-Cloud. Han detto a me di avvertirti. Ci sarà un mezzo alle 3 davanti al giornale. D'accordo, allora? Scusa se t'ho fatto scendere, ma ho tante commissioni da fare. Federico non ebbe il tempo di girarsi che il portinaio gli tendeva una lettera. Il signore e la signora d'Ambreuse pregano il signor Federico Moreau di onorarli accettando di pranzare in casa loro sabato 24 corrente. Sarà gradita una cortese conferma. Troppo tardi, si disse Federico. Non di meno mostrò la lettera de Laurier che esclamò: «Finalmente! Ma non sembri troppo soddisfatto, come mai?» Federico esitò un poco, poi disse che per lo stesso giorno aveva già un altro invito. «Fammi il favore di mandare al diavolo la tua Rue de Choiseul. Niente sciocchezze, eh? Risponderò io per te, se non hai voglia!» E lo scrivano vergò un biglietto di conferma usando la terza persona. Non aveva mai visto il mondo se non attraverso le sue febbrili cupidigie, e così se l'immaginava come una sorta di creazione artificiale funzionante secondo leggi matematiche. Era fermamente convinto che le cortigiane danno consigli ai diplomatici, che i ricchi matrimoni si ottengono a furia di intrighi, che i furfanti han del genio, che la fortuna è docile nelle mani dei forti. Insomma, era talmente persuaso dell'utilità di frequentare i D'Ambreuse e ne parlò con tanta efficacia che Federico non sapeva più cosa decidere. In ogni caso, dal momento che era la festa di Madame Arnoux, doveva mandarle un regalo. Naturalmente gli venne in mente un ombrellino per rimediare al suo piccolo disastro. E ne scovò appunto uno di seta cangiante con una piccola impugnatura di avorio intagliato che veniva diretto dalla Cina. Ma costava 175 franchi e Federico non aveva un quattrino. Voleva quell'oggetto, tuttavia ci teneva e benché gli seccasse ricorse a Delorier. Delorier gli rispose che non aveva denaro. «Ma ne ho bisogno!» disse Federico. «Ne ho bisogno davvero!» E poiché l'altro ripeteva la stessa scusa, non riuscì a trattenersi. «E dopotutto, ogni tanto potresti anche...» «Anche che cosa?» «Niente.» Lo scrivano aveva capito. Prelevò dai suoi fondi di riserva la somma in questione e dopo averla snocciolata pezzo per pezzo, «Non ti chiederò certo ricevute dal momento che vivo alle tue spalle.» Federico gli gettò le braccia al collo con mille proteste affettuose. Delorier rimase freddo. Poi, il giorno dopo, scorgendo l'ombrellino posato sul pianoforte, «Ah, era per questo! Oh, forse lo restituirò!» disse Federico vilmente. Ebbe fortuna. Prima di sera gli arrivò da casa d'Ambreuse un biglietto listato a lutto, nel quale la signora gli annunciava la perdita di uno zio e si scusava di dover rimandare il piacere di fare la sua conoscenza. Alle 2 Federico era già davanti al giornale. Invece di aspettare per portarlo con la sua carrozza, Arnoux era partito il giorno prima, non resistendo al suo bisogno di aria aperta. Mentre Federico parlava col commesso, sopraggiunse la signorina Vatnaz. Vedendo che Arnoux non c'era, parve contrariata. E sarebbe stato assente forse ancora per 2 giorni. Il commesso le suggerì di andarci, lei non poteva, di scrivere una lettera, ma lei temeva che andasse smarrita. Federico s'offerse di portarla a lui. La signorina la vergò in tutta fretta e lo scongiurò di non consegnarla alla presenza di testimoni. 40 minuti dopo, Federico arrivava a Saint-Cloud. Thank you. La casa di campagna di Arnoux era a 100 passi dal ponte, a mezza costa sulla collina. I muri del giardino erano nascosti da un doppio filare di tigli e il prato, molto vasto, scendeva sino alla riva del fiume. Il cancello era aperto. Federico entrò. Sdraiato sull'erba, Arnoux giocava con una nidiata di gattini, distrazione che pareva assorbirlo completamente. La lettera della signorina Vatnaz lo distolse dal suo torpore. «Diavolo, che seccatura! Ha ragione, bisogna che parta!» Poi, ficcatasi in tasca la lettera, si compiacque di fargli fare il giro delle sue proprietà. Gli fece vedere tutto, scuderia, rimessa, cucina. Il salotto era sul lato destro e finiva dalla parte di Parigi in una veranda graticciata sulla quale fioriva un rampicante. Sopra le loro teste, all'improvviso, si udì un gorgheggio. Madame Arnoux, credendo d'essere sola, si divertiva a cantare. Si interruppe di colpo quando sopraggiunsero due vicini, il signore e la signora Audry. Comparve poco dopo alla sommità della scala e nell'atto di scendere i gradini Federico intravide il suo piede. Aveva delle scarpine dorate, di pelle color bruno rossiccio, con 3 lacci trasversali che disegnavano sulla calza una sorta di griglia d'oro. Arrivavano gli invitati. Erano tutti i commensali del giovedì. Ciascuno portava un regalo. Dittmer una sciarpa siriana, Rosenwald un album di romanze, Burier un acquerello, Sombaz una caricatura che aveva fatto a se stesso e Pellerin uno schizzo a carboncino il cui soggetto era una specie di danza macabra, idea orrenda eseguita in modo mediocre. Quanto a Isonet, s'era dispensato da qualsiasi dono. Federico attese all'ultimo, dopo tutti, per offrire il suo. Lei lo ringraziava con calore. Allora gli parve di dover dire: «Ma era un debito quasi. Ero rimasto così male». «Di che cosa?» replicò la signora. «Non capisco». «A tavola!» esclamò Arnoux prendendolo per il braccio. E poi, a parte, nell'orecchio: «È proprio un bel furbo, lei». Niente di più gradevole di quella sala da pranzo con le sue pareti color verde acqua. Dalle finestre aperte si vedeva tutto il giardino e al di là del fiume, in un largo semicerchio, si stendevano il Bois de Boulogne, Neuilly, Sèvres e Meudon. Si parlò dapprima della vista che si godeva, poi in generale del paesaggio, e qualcuno cominciava a discutere quando Arnoux diede ordine al domestico di far preparare la carrozza per le 9:30 circa. Una lettera del suo contabile lo costringeva a tornare in città. «Vuoi che venga con te?» disse Madame Arnoux. «Ma certo!» Poi, ripresa la conversazione, si venne a parlare di pittura. Pellerin voleva sapere se fosse vero che il famoso Saul Matthias, il mese prima, fosse venuto apposta da Londra per offrire 23.000 franchi per un quadro di Ruiz Dahl. «Verissimo!» E rivolgendosi a Federico: «È giusto quel tale che mi trascinavo appresso l'altro giorno all'Alhambra!» «Con pochissimo entusiasmo, glielo assicuro, questi inglesi sono una tal barba!» Federico aveva sospettato nella lettera della signorina Vatnaz una storia di donne e aveva provato una certa ammirazione per la disinvoltura con la quale Arnoux s'era cavato pulitamente d'impaccio. Ma questa nuova bugia, assolutamente gratuita, rimase a bocca aperta. Con tutta semplicità il mercante aggiunse: «E quel tuo amico, quel giovanotto alto, come si chiama?» «Delorier», disse di slancio Federico. E per riparare ai torti che sentiva d'avergli fatto, si mise a esaltare l'intelligenza superiore dell'amico. Anna Bonaiuto ha letto L'educazione sentimentale di Gustave Le Bon, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it